Allora, vi dicevo, Totti ha segnato questi 200 gol. Sono 130 su azione, 54 calci di rigore e 17 punizioni. Curiosamente, il numero di punizioni messe a segno è lo stesso numero di punizioni che segnò Baggio, perché Baggio ha segnato a sua volta 17 gol su punizione, ma a differenza dei 54 rigori di Totti segnati, ne ha segnati 68 su calcio di rigore. Per cui, se, ma ripeto, è una curiosità, non è niente di più, però è una curiosità secondo me di quelle abbastanza significative. Per cui già oggi Totti ha segnato 130 gol su azione contro i 120 di Baggio, lo ha già superato. E calcolando che Baggio ha sempre giocato da punta, diciamo da seconda punta, ma non ha mai fatto il centrocampista offensivo, il trait d'union, il fantasista, il centravanti arretrato, chiamatelo come volete, come ha fatto Totti per almeno metà carriera, se non due terzi, beh, io trovo che la produzione di Totti sia anche superiore da questo stretto punto di vista, così come è superiore a quelle del Piero, perché ripeto, Totti 201, Del Piero 182, e a sua volta anche Del Piero 48 rigori contro i 54 di Totti, direi che fa poca differenza. Se vogliamo fare un altro parallelo che qualche mese fa aveva giustamente fatto riempire colonne d'inchiostro, in che occasione? Quando Del Piero superò Giampiero Boniperti, massimo cannoniere della storia della Juventus, oltre che massimo presidente della storia della Juventus, ma insomma emblema bianconero, super storico, 178 gol in Serie A. Un giorno, ripeto, di qualche mese fa, Del Piero lo supera. Beh, anche lì lo supera, sì, certo, oggi Del Piero è arrivato a quota 182, ma ha tirato 48 calci di rigore, mentre Boniperti su 178 gol ne ha segnati 2 su rigore.